Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Atti, capitolo 5, versetto 29. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna obbedire a Dio, anziché agli uomini. Obbedire non è sempre facile, specialmente quando obbedire a Dio ci pone in conflitto con le aspettative o le norme di chi ci circonda. In Atti 5 vediamo Pietro e gli altri apostoli affrontare una situazione in cui la loro lealtà a Dio li porta direttamente a scontrarsi con le autorità religiose. Furono arrestati e condotti davanti al Sinedrio, e l'ordine era chiaro: smettere di predicare nel nome di Gesù. Ma la loro risposta fu semplice e potente: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Cosa significa nella nostra vita quotidiana questo? È facile obbedire a Dio quando non c'è conflitto, quando le cose vanno bene e le nostre decisioni non vengono messe in discussione. Ma cosa accade quando seguire Cristo ci mette in disaccordo con la nostra cultura, la nostra famiglia o persino le nostre stesse aspettative? Cerchiamo di capire il passaggio. Questo versetto di Atti 5:29 è una dichiarazione di fede e di convinzione incrollabile. Pietro e gli apostoli stavano subendo un processo per aver disobbedito a un ordine diretto del Sinedrio, la massima autorità religiosa di Israele. Tuttavia, essi comprendevano che l'autorità di Dio era superiore a qualsiasi autorità umana. La loro risposta non fu solo un'espressione di resistenza, ma un'affermazione del fatto che la missione di Dio, il mandato di predicare il Vangelo di Gesù, era al di sopra di ogni altro ordine. Il contesto di questo passaggio è importante. Dopo che Gesù era risorto e asceso al cielo, gli apostoli ricevettero l'ordine di essere suoi testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1:8. Questo mandato divino li spinse a predicare con coraggio, anche di fronte alla persecuzione. In Atti 4 erano già stati avvertiti di non parlare più del nome di Gesù, ma essi sapevano di non poter tacere. Ciò che avevano visto e udito era vero. L'affermazione di Pietro in Atti 5:29 riecheggia l'idea che l'obbedienza a Dio è suprema. Questo è più di una semplice disobbedienza civile, si tratta di un'obbedienza fondata sull'autorità divina e sulla missione redentrice che Gesù aveva loro dato. Questo insegnamento è cruciale per noi oggi, in un mondo in cui a volte le leggi umane e le aspettative sociali possono entrare in conflitto con i comandamenti di Dio. Tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passaggio. Numero 1. Valuta la tua lealtà a Dio. Rifletti sulle aree della tua vita in cui potresti essere tentato di compromettere tra il seguire Cristo, cioè il seguire Dio, e il soddisfare aspettative degli altri. Chiediti: sono disposto a mettere Dio al primo posto, anche quando ciò significa affrontare opposizione? Numero 2. Piacere a Dio è meglio che piacere agli uomini. In questo mondo siamo continuamente spinti a conformarci o a cercare di essere accettati. A volte la pressione non appare come un divieto esplicito, ma è sottile. Lì dobbiamo ricordare che è meglio piacere a Dio, con tutto ciò che questo comporta nei confronti degli uomini, piuttosto che piacere agli uomini sapendo di disubbidire a Dio. Numero 3. Prega per avere coraggio. Come gli apostoli, chiede a Dio il coraggio di seguire i suoi comandamenti, specialmente quando è difficile. Prega affinché nei momenti di prova tu possa dire con fiducia: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Una riflessione. Riflettiamo oggi sul fatto che la vera obbedienza a Dio spesso ci porterà a prendere decisioni difficili, a volte controcorrente. Soprattutto controcorrente rispetto alla cultura e alle aspettative di chi ci circonda. Che questo versetto ci ispiri a mantenere la nostra lealtà a Dio al di sopra di tutto, confidando che Egli è degno della nostra totale obbedienza anche nei momenti più sfidanti. Preghiamo. Signore, aiutami a mettere sempre la Tua volontà al di sopra di tutto. Dammi il coraggio di obbedirti, Padre, anche quando è difficile, e la sapienza per discernere la Tua volontà in ogni circostanza, Signore. Fa che la mia vita sia una testimonianza della mia lealtà a Te, sia che la pressione venga attraverso la violenza o la sottile pressione di un gruppo. Ti prego per questo, Padre Santo. Amen. Oggi leggiamo Genesi 5, Matteo 5, Esdra 5 e Atti 5. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!